ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi. Mamma e papà. Mamma e papà, nudi, in corridoio tra il bagno e la camera da letto, avvinghiati l'uno all'altra. Giocano? Mamma e papà, state giocando? Mia madre impugna le forbici di metallo, quelle della cucina, lunghe, lucide, fredde, appuntite. Le stringe fortissimo con tutta la mano, esattamente come fortissimo mio padre le serra il pugno cercando di strappargliele. Lasciami, ho detto lasciami. Per lo sforzo la mamma mostra i denti, le gengive, chiude forte gli occhi come a far implodere le orbite e i bulbi, i tendini dei polsi di fuori, cerca di divincolarsi, cerca di liberarsi da papà che la stringe e le blocca le mani, la punta delle forbici rivolta in basso verso il petto di mio padre, pochi peli scuri al centro, carne, pelle, metallo. Mamma e papà sono nudi e lottano davanti a me. Me li ritrovo di fronte uscendo dalla camera in cui fino a qualche minuto prima stavo dormendo. Ho in bocca qualcosa, il biberono, solo il ciuccio. Cosa fanno? Il mio psicoterapeuta una volta, mentre muoveva le dita di fronte ai miei occhi durante una seduta di EMDR, mi ha chiesto: ti ricordi come hanno reagito quando sei arrivato? Quando ti hanno visto? Quando si sono accorti di te? Si sono fermati? Ti hanno detto qualcosa? No, non mi ricordo niente. Il mio primo ricordo finisce lì. Non c'è un prima, non c'è un dopo. Il primo ricordo della mia vita sono mia madre e mio padre che lottano nudi con un paio di forbici in mano. Non è vero, non è mai successo. Mia madre dice che me lo sono inventato. Il grande discrimine nell'ambito dei traumi che a tutti prima o poi la vita infligge, mi ha detto sempre lo stesso terapeuta, il terzo in ordine cronologico, è dato da quello che succede subito dopo il trauma. Se l'evento spesso è inevitabile, è la gestione di ciò che è accaduto che restituisce il senso della nostra umanità, del modo in cui veniamo trattati e tratteremo noi stessi. Ma il mio ricordo si ferma lì, cristallizzato in una scena che non è solo una scena. È un destino, un trailer. Questa è la storia che precede la mia. È la storia dei miei genitori, Tina e Roberto, cresciuti anche loro come me a Rozzano. Giovani, troppo. Mia madre e mio padre. Quando nasco, mia madre ha 18 anni, mio padre 21. Arrivo per caso, diciamolo pure per sbaglio. Si sono distratti, non era il momento. Sono solo due ragazzi dei cortili e delle case popolari che si piacciono ed escono insieme. Mia madre a un certo punto rimane incinta. Devo dirti una cosa. Tu che vuoi fare? Quando si viene a sapere della gravidanza, le famiglie intervengono, si mettono in mezzo. Si offrono di sostenere loro questa coppia di fidanzati all'improvviso destinata a diventare altro. Tutto troppo in fretta, sono due ragazzini, neanche lavorano, come si fa? La situazione deve essere gestita dall'alto. Vi aiutiamo noi, non vi preoccupate. Abortire? Non se ne parla neanche. Se il Signore ha voluto così. Discussioni, pianti, gioia, disperazione. Tina e Roberto, la storia dei miei genitori è la storia di un amore diventato in fretta odio e ripicca. Una storia d'amore a Rozzano. Il paese in cui vivono i miei è una specie di matrice che si riproduce in scala. Rabbia e conflitto si irradiano in piccolo ovunque. Microfisica del dolore. C'è conflitto impastato in ogni cosa, anche nei punti apparentemente più tranquilli. A Rozzano la voglia di ringhiare e menare le mani non passa mai del tutto. Le forze per quello si trovano sempre. Mio padre e mia madre vengono da due famiglie rozzanesi, sì, ma molto diverse. Due tribù, due clan devoti a idoli antitetici. Mio padre, Roby, Roberto, famiglia di impiegati, la nonna Nuccia, origini siciliane, il nonno Pier, Pierluigi, milanese. Mia madre invece è cresciuta in una famiglia di napoletani, figli di napoletani, venuti su al nord a cercare lavoro all'inizio degli anni 60. La nonna Lidia, casalinga, e il nonno Biagio, detto Sisino, operaio. Una famiglia rumorosa, melodrammatica, parolacce e sfottò, pranzo, cena e televisione, tutti a lavorare in fretta il prima possibile. Le scuole, il minimo necessario, i miei nonni solo le elementari, i loro figli, mia madre e gli zii, non oltre le medie, eppure quelle a fatica. Nei tanti momenti in cui poi, scemato l'amore, mio padre litigherà con mia madre, la chiamerà, per questo, terrona, ignorante di merda. Con la mia nascita queste due sfere estranee si toccano. anzi si sfiorano, si intersecano in un unico punto, quel punto del mondo che poi sono io, due mondi che in realtà non hanno molto da dirsi e che infatti si dicono quel poco e poi basta. Poi solo recriminazioni, improperi, minacce. 1982. Mio padre e mia madre si conoscono 3 anni prima che lei resti incinta. Sono nella stessa compagnia, scorrazzano per i cortili che si affacciano su Viale Lombardia. Coi loro amici, i motorini e le biciclette stanno sotto casa di mio padre, in via Dalie. Del loro gruppo fanno parte anche alcuni cugini di mia madre, alcune ex fidanzate di mio padre e Biagio Antonacci, con cui mio padre suona nelle cantine. C'è la droga in quegli anni, eroina soprattutto, ma non li riguarda. Però ne vedono tanti finire male. I tossici di Rozzano nella loro età dell'oro. Una storia d'amore tra ragazzini, quella dei miei. Senza di me sarebbe durata. Ho solo pochi frammenti di ciò che precede il mio arrivo nel mondo, mezze parole dette per sbaglio tra un discorso e l'altro. La storia tra i miei genitori viene colpita dal damnatio memorie. Non è mai esistita, non c'è mai stata. Non so praticamente nulla di quando stavano insieme. Nella mia mente sono originariamente già da sempre divisi. Mamma, staccato, un bel po' di spazio, papà. Non so niente di baci, del bene, dell'affetto intercorso. Nessuno me lo racconta, lo intuisco da solo, talvolta in controluce, dalle parole di mia madre o di mia nonna. Emerge, risale dal fondo delle cose passate come il residuo di qualcosa che non svanirà mai. Tuo padre la colpa, tuo padre il colpevole. Cresco all'ombra di questo giudizio unilaterale. Cresco con la paura di essere come lui. Inaffidabile, inqualificabile, un pezzo di merda. So però com'erano mia madre e mio padre presi uno a uno da adolescenti. Li ho visualizzati, immaginati. Ho imparato a intravederli attraverso i ricordi degli altri. A 20 anni mio padre non ha voglia di studiare né di lavorare. Inquieto, capriccioso, sciupa femmine. È appassionato di macchine e moto, suona la batteria. È un grande fan di Renato Zero. Ha i capelli lunghi, a coprire le orecchie a sventola, si traveste imitando il cantante romano. Mio padre, che negli anni sfotterà gli omosessuali e terrà la foto di Mussolini nel portafoglio, da giovane è un sorcino. Roberto ci sa fare, quando parla pendono tutti dalle sue labbra e lui se ne approfitta, fa quello che vuole. Inizia le superiori ma si stufa, molla al primo anno. Provano a mandarlo nell'officina di un meccanico per fargli imparare un lavoro, ma si stanca anche lì. Tuo padre andava a lavorare solo quando voleva qualcosa, se lo comprava e poi si licenziava. Tuo padre è sempre stato così, non cambierà mai, mi dirà 1000 volte mia madre, e tu sei come lui. È una sentenza, sei come tuo padre. Proprio negli anni della storia con mia madre approfitta del servizio militare per mettere la testa a posto, forse più come ripiego che per vocazione. Dopo tanti lavori interrotti si ferma, si arrende. C'è da mettere su casa, sta per diventare un capofamiglia. Ora ha una moglie e un bambino di cui prendersi cura. Io e la mamma, i suoi piccoli amori, il suo regno, io e lei, le uniche persone per cui decide di provare a fare sul serio. Diventa agente di polizia. Che lavoro fa il tuo papà? Mio padre, pausa, dilato il piacere, fa il poliziotto. Mia madre invece, 1,58 m senza tacchi, occhi verdi e capelli castani, anche se poi diventeranno prima biondi e a seguire rossi. Gonne lunghe, camicioni a fiori, caschetto, ai piedi le ballerine oppure certi stivaletti bassi da Indiana d'America. Si chiama Concetta, come sua nonna, come la madre di mio nonno, ma tutti la chiamano Tina, la Tina. La più bella della compagnia, la più corteggiata. Più di uno aspira a mettersi con lei, ma niente da fare, ha scelto mio padre. Sua madre, mia nonna, vorrebbe che si fidanzasse con Yuri, il figlio della vicina. Ma Tina, perché non ti piace? Mamma, basta, sto con Roberto. Bella la Tina. Tina la bella, ma anche dura, seria, sta sulle sue, l'esatto opposto della gatta morta. Non si fida di nessuno, si fida solo di quelli sbagliati. Mia madre smette presto di andare a scuola e vive fino all'incontro con mio padre segregata in casa. Così vuole suo padre, mio nonno. Non si può muovere. Il nonno la sorveglia come se avesse sempre 10 anni. Non può uscire, ha i soldi contati. Le femmine stanno a casa, aiuta tua madre a fare i mestieri, te ne vai quando ti sposi. Quando la mamma dice che le piace qualcosa da mangiare, lui inizia a comprarglielo in continuazione. Fa la scorta, dice. Soprattutto se lo trova in offerta. Compra solo quello, le fa venire la nausea. Papà, avrei voglia di Nutella. La dispensa, settimana dopo settimana, si riempie. L'hai voluta, adesso te la finisci. Ma non mi va. Secondo te io adesso la butto? Mia madre ogni tanto lavora come babysitter da una famiglia di conoscenti e in qualche baracchino estivo. Inizia a girare la voce che stanno aprendo dei nuovi uffici, sono gli anni 80, si cominciano a usare i primi computer. C'è la possibilità di un inserimento, di un'assunzione. Glielo propongono, potrebbe iniziare un lavoro vero, combinare qualcosa. Niente. Non se ne fa niente, mio nonno è contrario. Troppo lontano, poi come torni alla sera? Stai a casa, cosa ti manca? Tina e Roberto, mia madre e mio padre. Pronunciare, scrivere queste parole insieme scatena un cortocircuito. Restaura in me la frattura primitiva, il guaio nel guaio. Simula una ricomposizione inutile, tutta ideale, perché a voler essere onesti, non c'è proprio niente da ricomporre. Una famiglia non c'è mai stata. Al massimo c'è stata una prova, un esperimento. Mia madre e mio padre mi concepiscono alla fine dell'estate, guardando Miseria e Nobiltà di Totò. Si sposano in fretta per porre rimedio alla gravidanza che gli è piombata addosso, ma il tentativo concertato coi genitori di trasformarsi di colpo in famiglia non funziona. Finisce tutto malissimo. Nasco il 13 giugno 1985, l'anno della grande nevicata, però io nasco in primavera, alle 10:10 di un giovedì mattina. Gemelli, ascendente leone, aria che soffia sul fuoco. 10:10, l'orario sul quale vengono impostati gli orologi in vetrina. Nasco e sono piuttosto grosso, 3,950 kg, ripete un sacco di volte mia madre. Sono il suo trofeo, un figlio grosso, un travaglio infinito. Mia madre precisa, smentisce. Sì, è vero, non eri in programma, ma io ti ho voluto. Poi le cose sono andate come sono andate, ma non sei stato un errore. Nasco il 13 giugno, ma non a Rozzano. Cresco a Rozzano, ma nasco a Milano, all'ospedale Niguarda. E da piccolo questa è una delle poche cose che mi danno un moto d'orgoglio, come la bellezza di mia madre o l'amicizia tra mio padre e Biagio Antonacci. Almeno alla nascita si è messo agli atti, io non mi trovo sul suolo di Rozzano. Una forsennata corsa in automobile verso l'ospedale, ho 7 mesi, voglio uscire troppo presto, poi ci ripenso. Sono riusciti a tenermi buono e a quel punto non ne voglio più sapere. Non andava bene prima e allora non nasco più. Devo decidere sempre io, anche a costo di farmi male. Nasco in ritardo di 2 settimane. Mia madre va al Niguarda per un controllo e non torna più a casa. La trattengono e partorisce. Nasco con 2 voglie sulla pelle, una d'anguria, larga e rossa, sotto la pianta del piede sinistro, e una piccola voglia di caffè latte, chiara, sulla pancia, di fianco all'ombelico. Alla nascita somiglio soprattutto a mia nonna, la madre di mio padre, Agata, detta Nuccia. Le somiglio soprattutto per il naso, grosso, afro, a patata. Tutto quel ramo della mia famiglia ha connotati esotici. La mia bisnonna catanese aveva la pelle scurissima. Ho sempre immaginato una qualche discendenza dai Mori. L'infermiera glielo dice proprio a mia madre, mettendomi tra le sue braccia subito dopo il parto. Guardi signora, sembra che il figlio l'ha fatto sua suocera. La gravidanza rovina il corpo di mia madre. Gestazione e parto le lasciano segni che non se ne andranno mai più. I chili presi la riempiono di smagliature. Da piccolo mi sembrano striature di tigre. E durante il parto le infermiere e l'ostetrica si accaniscono su di lei per farmi uscire. Le salgono sulla pancia, le spaccano il setto nasale con una gomitata partita per sbaglio. Ho trovato una foto che ci ha fatto mio padre appena usciti dall'ospedale. Mia madre è imbronciata al sole, una frangia lunghissima che arriva quasi a coprirle gli occhi. Addosso un abito largo, sformato, residuo del premamò. Io ci sono, ma non mi si vede. Io. La causa, il motivo di tutto, me ne sto protetto, custodito in un passeggino blu scuro sotto il sole di un giugno inoltrato. Mi chiamo Jonathan. Perché così ha voluto mia madre, come il gabbiano, anche se lei non lo sa. In quegli anni in TV c'è il programma di Ambrogio Fogar, Jonathan Dimensione Avventura. Prendo il nome da una trasmissione sulla natura e gli sport estremi, condotta da uno finito male. Il mio nome lo sceglie mia madre perché sono maschio. Mio padre avrebbe preferito una femmina. Se fossi stato femmina, il nome l'avrebbe scelto lui. Mi avrebbe chiamato Desiree. Mio padre ama le molli, le donne mansuete, ma sono maschio. Quindi mi chiamano Jonathan, come vuole la Tina. Anche se i parenti vorrebbero un nome più tradizionale, un nome italiano, chiaro, facile da scrivere e pronunciare. È nato il 13 giugno. Chiamalo Antonio, il santo di Padova. Mia madre si impunta. Il figlio è mio, decido io. È una vita che si vergogna del suo nome. Concetta, da vecchia del sud. Non vuole che succeda lo stesso anche a me. Il figlio è mio. Lo chiamo Jonathan. Scritto bene, col TH che agli inglesi e agli americani fa mettere la lingua tra i denti. In famiglia quasi nessuno lo pronuncia come si dovrebbe. Ognuno mi chiama un po' come vuole. Sjonata. Jonata. In italiano sarebbe Giovanni. Il mio nome continua a creare problemi anche dopo che sono nato. Il prete della Sant'Angelo non vuole battezzarmi. Non c'è sul calendario, dice, non è il nome di nessun santo. Mia madre non molla, però è costretta a cambiare chiesa. Jonathan Bazzi. il cognome di mio padre, il nome scelto da mia madre, insieme, la crasi, la fusione, l'innesto, la cosa che non ha funzionato. Mi chiamo Jonathan, ma da qualche parte esiste quella Desiree, la figlia che mio padre avrebbe voluto, quella che avrebbe avuto un po' più di attenzioni. Da qualche parte esiste Antonio, il rozzanese, il nipote allineato, quello che si sarebbe fatto rispettare, che avrebbe salvato le donne della sua vita dalle urla e dalle mani cattive, quello che si sarebbe difeso, che sarebbe diventato adulto davvero. I nostri avatar per somma o sottrazione ci determinano, i nomi mancati di un figlio, la sua storia già iniziata prima di venire al mondo, le aspettative, i sogni degli altri, la prima missione che ci hanno affidato, il mio nome, 8 lettere. Io ti vedo così, non mi tradire. Dopo alcuni mesi da accampate a casa dei nonni, io, Tina e Roberto andiamo a vivere in un piccolo appartamento di 2 locali in via Giacinti, nei pressi della Torre Telecom e del capolinea del 15. Tra i miei le cose si mettono male in fretta. Mia madre è passata da un secondino all'altro. Anche mio padre non le lascia fare niente. Non devi lavorare, stai a casa, pensa solo al bambino. Non uscire, sei troppo scollata. Fammi vedere cosa ti sei messa. No, troppo corta, vatti a cambiare. Nessuno può toccarmi, nessuno può avvicinarsi a noi. Morboso, ossessivo, maniaco dell'ordine e della pulizia, mio padre si lamenta delle cose che mia madre non fa o non sa fare. Inizia a trattarla male, la insulta, la umilia, testa di cazzo, capra, merda, napoletana. Tornava dal lavoro e c'erano ancora i piatti da fare. Mi ha ripetuto decine di volte negli anni mia nonna, la madre di mio padre, come a giustificare i tradimenti e le sparizioni del figlio. Tua madre era una lazzarona, non faceva niente. La immagino donna della preistoria, cavernicola, i capelli arruffati, pidocchiosa, vestita di stracci. Le recriminazioni iniziano subito, da una parte e dall'altra. Contaminano le famiglie, diventano faida, vendetta. Del poco tempo che abbiamo passato insieme io ho solo qualche scena sconnessa, nessun ricordo sereno. Ho registrato solo il male? C'è stato altro? Per un periodo nella casa che ci assegna il comune in realtà non siamo soli. Con noi c'è anche Ambrogio, il grosso bobtail che mi porta in giro per casa sollevandomi per il pannolino. Anche lui chiamato così per Fogar? Io non me lo ricordo, me lo raccontano poi quando sono più grande. Non me lo ricordo anche perché Ambrogio sparisce presto, lo danno via. È il primo dei tanti animali domestici che compaiono nella mia vita per poi svanire nel nulla. È soprattutto mia madre che li prende e poi se ne libera. Dopo Ambrogio è il turno della gatta Biancaneve, poi della cagnolina Tabata, poi lo Yorkshire Charlie e il Rottweiler Athos, unico tentativo di mio padre con gli animali, fallito comunque nel giro di un paio di mesi. E poi ancora la persiana Lulu e lo Sharpei Pongo. Animali scomparsi, spariti, volatilizzati. Mia madre li prende, ma poi non riesce a curarli. Le piacciono solo i cuccioli? Riesce a essere fedele solo a chi la tratta male? Pochi ricordi dei 2 anni vissuti coi miei, non sarebbero comunque ricordi felici. Mio padre va con le altre, tradisce mia madre. L'ha sempre fatto, col tempo peggiora. Lei per un po' resiste. Dai, fallo per il bambino. Poi non ce la fa più. Le viene un esaurimento nervoso, va in depressione. Pensano sia epilettica, a continue crisi di nervi, sviene, trema, sbava, si butta per terra, si lascia andare alla disperazione di un amore diventato farsa, menzogna, rovina. La Tina è pazza, la Tina è malata. Mia madre fa le sceneggiate, urla, non lasciatela da sola con il bambino. Curatela, datele gli antidepressivi, farmaci per l'epilessia, non fatela uscire, tenetela d'occhio, chiudetela in casa. Ho imparato da lei, chissà forse già allora, a incaricare il corpo di manifestare ciò che non si sa gestire razionalmente a parole. Il corpo che inizia a parlare da solo, che esondando dice quel che non si può dire, che fa vedere il rimosso, l'inascoltato, che si ribella al regime eterno dei padri, dei mariti, dei nonni. È la tradizione delle isteriche, l'etichetta con cui il potere maschile ha marchiato il sentire delle non allineate. Ho come archetipo relazionale una coppia di nemici. Mamma e papà se ne sono andati. Di amore tra di loro non ce n'era abbastanza, ma prima che finisse del tutto quel poco di bene che c'era si è riprodotto. Ha creato me. Io sono il precipitato imprevisto di una storia durata niente. Quello che c'era tra di loro non è scomparso, si è solo spostato. Non gli credo. Ho paura che non sia vero. E se non è vero, stiamo solo perdendo tempo. La malattia progredirà indisturbata. Le stiamo lasciando campo libero, il mio corpo a disposizione. Di me può fare quello che vuole. È quello che farà. 30 anni, il medico curante credeva fosse mononucleosi, muore di leucemia. Milano, la famiglia del giovane chiede di chiarire le responsabilità di una morte che forse si poteva evitare. Torno a casa, mi rimetto a cercare in rete, mi affido ai siti, ai forum, cerco tra i valori e le descrizioni dei sintomi, pagine che apro una dopo l'altra. No, non ce l'ho. Non è mononucleosi. Il medico si è confuso. Dice così perché non sa che pesci prendere. Torno nel suo studio e gli porto gli esiti degli esami, quelli che gli ho mandato su WhatsApp. In effetti i valori sono ambigui, dice. Potrebbe essere che ne stai uscendo, che l'hai avuta in passato, magari da piccolo. Ma come uscendo? Io sto male adesso, io sto sempre peggio. Continuiamo con le vitamine e gli integratori, dice. Ah, guarda, oggi mi hanno portato un campione omaggio di queste pastiglie erboristiche. È una radice cinese, potente, una bomba. Se vuoi te ne lascio una confezione. Fammi sapere. Torno a casa, mi metto a letto. Raccolgo le gambe, mi raggomitolo. Provo a chiedere a qualcun altro. Mando una mail dal cellulare a Lorenzo, un ragazzo che ho conosciuto anni fa in una delle scuole di yoga che ho frequentato. È medico, ginecologo, insegna anche lui. Un po' mi vergogno, non siamo così in confidenza, ma più pareri raccolgo e meglio è. Mi risponde in fretta. I sintomi in effetti sono compatibili con la mononucleosi. Gli chiedo nello specifico dei miei valori, ma non risponde più. Devo chiedere a una mia collega, dice. Silenzio, più niente. Si sarà dimenticato. Non ha senso scrivergli ancora. Allora cambio consulente, scrivo a Eugenia. Lavorava per la televisione, poi ha mollato e si è dedicata all'insegnamento della Iyengar, lo yoga dell'allineamento. Mi dice di prendere la papaya fermentata. Costa un po', ma rinforza il sistema immunitario. Visto che la mononucleosi non ha una cura specifica, secondo lei intanto mi posso aiutare con quella. Sto continuando a insegnare e quando insegno faccio finta di niente. Evito di raccontare ai responsabili dei posti in cui lavoro che non sto bene. La mononucleosi è contagiosa, va a finire che mi lasciano a casa. Sto continuando a fare lezione anche se non vorrei. Non posso smettere, mi servono i soldi. Non dimostro le posizioni, cerco di guidare le classi il più possibile con la voce. Se mi sento troppo stanco, mi appoggio alla parete o mi siedo per terra. Mi sforzo di non dare nell'occhio. Non vorrei più uscire di casa, ma non ho alternative. Ogni volta il pensiero già proiettato al dopo, a quando sarà tutto finito. Faccio la spola tra il letto e il divano, mi nascondo sotto la coperta di pile con i gatti, mi riaddormento e puntualmente ricomincio a sudare. Mi sveglio, mi alzo, mi cambio e torno a sdraiarmi. Questo è il nuovo ritmo delle mie giornate, una sequenza di gesti senza futuro, nessun progetto, nessun desiderio. Poi però, novità, non ho più solo la febbre, irritazione al palato, raffreddore, muco, gola infiammata. Una settimana, due settimane... Era un'influenza inceppata. Ora si sfoga e se ne andrà, come ogni altra influenza che ho avuto. È stata una fase, un momento di debolezza, succede. Mia madre mi chiama. Come ti senti? Al solito, di sicuro non andrei a farmi una corsa. No, certo, un po' alla volta. Mi si abbassa la voce, le corde vocali bloccate, compromesse anche le vie respiratorie. Inalo almeno 3 volte al giorno il vapore della pentola più grossa che ho in casa, riempita di acqua bollente. Nell'acqua lascio cadere 10 gocce di tea tree oil, l'olio essenziale ricavato dalla melaleuca, una pianta australiana usata dagli aborigeni. L'ho letto su internet, va benissimo per le infiammazioni. 1, 2, 3 giorni. Non mi fa niente. Provo ad assumere l'olio direttamente per via orale, solo un paio di gocce mi consiglia chi se ne intende. Estremo rimedio, dicono, non bisogna abusarne. È fortissimo, sa di deodorante per armadi. Il sapore resta in bocca per ore. 2 giorni, 3, 4. Stesso risultato, non mi riesce a curare. Se non è mononucleosi, allora cos'è? Perché ho la febbre da settimane? Non posso fare a meno di digitare nella barra di Google. E se è un tumore? Leucemia? Un linfoma? Continuo a cercare online, mi assillo con le informazioni rintracciate in rete. Marius mi dice di smetterla, che non serve a niente, ma a cos'altro dovrei pensare? Leggo e rileggo le stesse cose in continuazione. Imparo sintomi, evoluzione e cura di un numero spropositato di malattie. Scivolo giorno dopo giorno in una competizione interna tra le ipotesi e gli scenari peggiori. Tra le possibilità scelgo sempre quella più eclatante, quella senza rimedio. Mi porto avanti. Devo prendermi cura del panico. Soddisfarlo mi viene più facile. Immagino tutto il male possibile. Basta, ho deciso, è un tumore. Arriverà, sta arrivando il tempo della chemioterapia. Mi diranno la data del ricovero, saluterò il mio ragazzo, saluterò lui e saluterò i gatti, li bacerò per l'ultima volta e andrò a farmi riempire di tubi e di farmaci che mi faranno stare ancora peggio di come sto. Sarò lontano, a letto, mi dovranno aiutare a fare tutto. Mi verrai a trovare, mi amerai ancora mentre me ne starò andando. Ricoverato, dovrò andare via da qui, da casa nostra. Io che non mi allontano mai, che non posso lasciarvi neanche per 2 giorni di fila, finirò in qualche ospedale mai visto, mi cadrà tutto, le sopracciglia, i peli, i capelli. Com'è una faccia su cui non resta più niente? Dormo sempre di più, dormo per non pensare, per avere un po' meno paura. Non riesco più a leggere né a scrivere, allora dormo, mi spengo, mi calmo col sonno. Inizio a saltare delle lezioni in palestra, mi faccio sostituire. Mi telefonano, mi cercano, spesso neanche rispondo. Come mai non sei venuto? Ti aspettavamo. Non mi interessa più niente. Non ho più la forza di controllare, ricordarmi, essere responsabile, costi, scadenze, bollette, procurarmi i soldi per le spese, l'affitto, vada tutto come deve andare. Tanto ho capito cosa mi aspetta. Scrivo al mio medico. Sto pensando di andare al pronto soccorso, inizio davvero a essere al limite. La febbre come va? Ieri sera e stamattina la temperatura era normale, poco fa invece è salita a 37,3. Se ti fa sentire meglio, vacci. Ci vado davvero, ma non serve a niente. La mia non è un'urgenza, dicono. È da gestire col medico curante. Possono darmi solo il codice bianco. La prospettiva di restare ore su una sedia mi annienta. Letto, divano, io mi devo sdraiare. Ritorno a casa. Un pomeriggio, 2, 5. Perdo la cognizione del tempo. Cerco qualcosa da guardare mentre mi riaddormento. Su YouTube apro uno dopo l'altro tutti i video di Maurizia Paradiso malata, quelli che ha postato mentre era ricoverata per la leucemia al San Geraldo di Monza e faceva la chemio. Parolacce, urla, nessuna censura. Lei ci scherza, io mi preparo a quel che verrà. La guardo che ride, sbraita, manda a fanculo, non è mica la fine del mondo, c'è vita anche lì, è successo anche ad altri, fatemi vedere come si fa. Trovo i video di alcune ragazze che hanno scoperto di avere il cancro e hanno deciso di documentare giorno per giorno quello che stanno vivendo. Donne di 20, 30 anni senza capelli, gonfie, con la pelle grigia e le occhiaie nere. Toccherà anche a me, sì, ma non devo morire per ora. Non deve succedere adesso. Devo fare la chemio, magari operarmi, un passo alla volta. Resisto un po'. Torno dal medico. Senti, io sto ancora male. Guardiamo un'altra volta gli esami. Ah, ma scusa, non ti hanno inserito l'emocromo, l'esame di base, la cosa più importante, la prima che si va a controllare. Globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, se c'è un'infezione si vede da lì, se è un tumore pure. Non c'è? Forse ho sbagliato io, pensavo di avertelo segnato, invece mi sarò distratto. Scusami, a volte sono un disastro. Facciamo l'emocromo e già che ci siamo controlliamo anche qualche altra cosa. Da quanto non fai l'esame dell'HIV? Da un po'. Mento, non l'ho mai fatto.